Do il benvenuto ai microfoni di Radio Città Fujiko a Fabrizio Montebugnoli, autore dello spettacolo Da quando sei partito, che andrà in scena al Teatro Odeon giovedì 3 febbraio. Fabrizio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. E Da quando sei partito è uno spettacolo incentrato sulla figura di Lucio Dalla e volevo iniziare questa intervista chiedendoti come si racconta uno dei più grandi autori della musica italiana. Bellissima domanda. Non è stato semplice, infatti questo è stato il passaggio più complicato, decidere come raccontarlo. E io ho deciso di non fare una biografia, che mi sembrava una cosa troppo scontata, quindi dalla nascita alla morte, quindi non ho voluto dare un taglio giornalistico, ma ho voluto raccontarlo a capitoli, quindi saltando qua e là in maniera temporale, parlando delle collaborazioni che ha avuto con gli artisti, parlando degli strumenti che sapeva suonare, raccontando curiosità e aneddoti, intervallato ovviamente lo spettacolo da canzoni, da immagini, da tante cose che ci saranno. Questo è stato il taglio che io ho voluto dare. Sì, non semplice, perché appunto è un personaggio poi difficilmente etichettabile, è unico forse nel panorama musicale italiano. Dicevi che lo spettacolo sarà intervallato da canzoni, ti chiedo in che senso e come sarà possibile ascoltare la musica di Lucio Dalla. Sì, se ci saranno delle canzoni, la musica ovviamente è protagonista. Ho dovuto fare una scelta, anche qui non semplice, perché ha scritto 500 brani per sé e per altri, quindi erano tantissimi, e abbiamo scelto qualcosa di conosciuto, qualcosa forse anche di meno conosciuto. Qui ho deciso di avvalermi di due cantanti, una voce maschile e una femminile, appunto di Claudio Porti e Giorgia Palazzo, perché non volevo che appunto fosse soltanto un uomo a cantare le canzoni di Dalla, che magari dopo uno può fare degli accostamenti, dei paragoni, e quindi ho voluto aggiungerci anche una voce femminile. E niente, ci sono queste canzoni, appunto, anche queste che fanno dei salti temporali, insomma, canzoni del passato, canzoni un po' più moderne. Per raccontare un Lucio Dalla non attraverso la biografia, ma come dicevi tu, attraverso aneddoti, racconti, qual è stato il lavoro di raccolta materiali e di studio su Lucio Dalla? Ecco, qui devo dire che ero abbastanza fortunato, perché comunque io ho cominciato a conoscerlo artisticamente a 13 anni, per cui io ero abbastanza preparato da questo punto di vista. Anzi, abbiamo dovuto togliere tanto dal copione, perché lo spettacolo sarebbe potuto durare due giorni eventualmente, avevamo tantissime cose da raccontare. Quindi il problema non è stato tanto sul materiale, cose che io ero molto informato, perché da piccolino ascoltavo tutte le sue interviste, le registravo, ho seguito tantissimi concerti, per 36 adesso non ricordo, e quindi ho ascoltato proprio dalla sua voce tanti racconti, quindi per radio, dal vivo, anche per strada, insomma a volte l'ho incontrato, a Bologna era facile incontrarlo, quindi il piacere è stato appunto condensare il tutto e fare in modo che lo spettacolo avesse un up and down di emozionale, quindi momenti ironici, divertenti, leggeri come era lui e altri più profondi. Quindi da questo punto di vista, insomma, non è stato molto complicato, io avevo tutto nella testa, anche se poi avevo tutto in casa, quindi libri, biografie, tutti gli album, insomma, ero abbastanza preparato da questo punto di vista. Fabrizio, io ti ringrazio e invito tutte e tutti a partecipare, ad esserci di questo giovedì 3 febbraio per vedere il tuo spettacolo Da quando sei partito al Teatro Odeon di Bologna, e quindi ancora grazie. Grazie mille, anche io invito tutti, è uno spettacolo bellissimo, lo spero possa piacere a tutti, oltretutto cade nei 10 anni dalla sua scomparsa, vi aspettiamo al Deon alle ore 21 giovedì, grazie mille. Grazie.